Ciao a tutte e tutti, sono Flavia e lavoro in una comunità per minori. Anche noi operatori sociali stiamo continuando a lavorare e questo, per quanto bello, a me personalmente mette tanta ansia, soprattutto per il grande senso di responsabilità che avverto nei confronti dei bambini che vivono in comunità. Tempo fa ho comprato per loro un libro che si intitola Un orso sullo stomaco, di Noemi Vola. Oggi ve lo leggo perché è un po' quello che provo io in questi giorni quando esco da casa per recarmi al lavoro. Un orso sullo stomaco. Non c'è niente da fare. Quando un orso arriva, arriva e basta. E non parlo di un orso qualunque, ma del peggiore tra i peggiori orsi esistenti sul pianeta. Il più brutto, grasso, feroce, antipatico, fastidioso, dispettoso, peloso, orrendo, maleducato, stonato, insistente, ingombrante, perdi pelo, denti storti, indesiderato, guastafeste, rovina gite, ruba biscotti, ignorante, vigliacco e via dicendo. Insomma, un vero disastro. E per di più sono allergica al suo stupidissimo pelo che mi fa lacrimare sempre gli occhi. Perciò, come prima cosa, gli ho chiesto di andarsene via con molta gentilezza. Ti prego, per favore, puoi andartene via, grazie. Ma con gli orsi non servono a niente le buone maniere, e nemmeno quelle cattive. Ho detto vattene, brutto coso peloso. Con loro non serve niente di niente. La teoria, le armi, la matematica, il cioccolato, le medicine, le spade di legno, gli antidoti, i T-Rex, le trappole, la guerra. Ma si sa che la guerra non è mai servita a niente. Nemmeno andare via, neanche lontanissimo. Sarebbe inutile anche cambiare pianeta. Perché gli orsi sanno sempre dove vai, anche quando non lo sai nemmeno tu. Sarebbe più semplice e meno faticoso arrendersi, consegnarsi in pasto a lui. Se non fosse così dispettoso da non farti nemmeno il favore di mangiarti. E che io un orso così non lo volevo nemmeno un po'. Io gli orsi li odio. E non c'è verso, né lato o prospettiva da cui guardarlo per farmelo piacere in nessun modo. E poi da quando c'è lui le cose sono cambiate, anche quelle normali, tipo dormire, andare in vacanza, fare la spesa, guardare un film o stare insieme a qualcuno. Lui di lasciarmi non ne vuole sapere, soltanto qualche volta si distrae con le farfalle o con altre piccole cose leggere e si allontana per un po'. A volte mi dimentico che c'è. E altre volte sembra lui a fare finta di non esserci. Una volta che eravamo molto stanchi ci siamo addormentati insieme e al mattino non l'ho più trovato. Era uscito da solo, probabilmente in cerca di qualche farfalla, senza nemmeno fare colazione. Poi, come sempre, è ritornato. E nemmeno questa volta mi ha risposto quando gli ho chiesto perché è venuto qui, perché da me, perché proprio quel giorno e non tra 100. Se gli sembra giusto, se non ha cambiato idea, se non si è stufato e se non gli importa niente di sapere che lo odio e che l'amicizia tra di noi sarà sempre impossibile e questo è sicuro. Mi ha guardato anche questa volta senza dire una parola. Ma che cosa volete che vi dicano gli orsi? Sono così di natura.